Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Quarta puntata. La Natalina rassomigliava, diceva mia madre, a Luigi XI. Era piccola, gracile, col viso lungo, i capelli a volte ravviati e lisci, a volte sontuosamente arricciati al ferro. Il mio Luigi XI, diceva mia madre al mattino, quando se la vedeva entrare nella stanza da letto, torva, con una sciarpa al collo, col secchio e con lo spazzolone in mano. La Natalina faceva confusione tra i pronomi femminili e maschili. Diceva mia madre, lei è uscito stamattina senza il soprabito. Chi lei? Il signorino Mario, lui deve dircelo. Chi lui? Lui, signora Lidia, diceva la Natalina offesa, sbatacchiando il secchio. La Natalina era, spiegava mia madre parlandone con le sue amiche, un fulmine, perché faceva i lavori di casa con una rapidità straordinaria ed era un terremoto perché faceva tutto quanto con violenza e rumore. Aveva un'aria da cane bastonato perché aveva avuto un'infanzia infelice. Era orfana, cresciuta tra orfanotrofi e ospizi, poi al servizio di padrone impietose. Provava per quelle sue antiche padrone, di cui raccontava che le davano schiaffi da farle dolere la testa per più giorni, un fondo di nostalgia. Gli scriveva a Natale sontuose cartoline dorate. Gli mandava anche a volte dei regali. Non aveva mai un soldo in tasca, essendo generosa, grandiosa nello spendere e pronta sempre a far prestiti a certe sue amiche con le quali usciva la domenica. Quell'aria da cane bastonato la conservò sempre. Sfogava tuttavia su di noi, e in particolare su mia madre, una sua volontà sarcastica, dispotica e testarda. Intratteneva con mia madre, che amava teneramente e dalla quale era teneramente amata, un rapporto burbero, sarcastico e niente affatto servile. Meno male che lui è una signora, sennò come farebbe a guadagnarsi la vita lui, che non è buona di far niente, diceva mia madre. Lui chi? Lui! Lei! Vivevamo sempre in casa nell'incubo delle sfuriate di mio padre, che esplodevano improvvise, sovente per motivi minimi, per un paio di scarpe che non si trovava, per un libro fuori posto, per una lampadina fulminata, per un lieve ritardo nel pranzo o per una pietanza troppo cotta. Vivevamo tuttavia anche nell'incubo delle litigate tra i miei fratelli Alberto e Mario, che anche quelle esplodevano improvvise. Si sentiva a un tratto nella loro stanza un rumore di sedie che si rovesciavano e di muri percossi, poi urla laceranti e selvagge. Alberto e Mario erano due ragazzi ormai grandi, fortissimi, che quando si prendevano i pugni si facevano del male. Ne uscivano coi nasi sanguinanti, le labbra gonfie e i vestiti strappati. «Si ammazzano!» gridava mia madre, trascurando l'M doppia nello spavento. «Beppino, vieni, si ammazzano!» gridava chiamando mio padre. L'intervento di mio padre era, come ogni sua azione, violento. Si buttava in mezzo a quei due avvinghiati a picchiarsi e li copriva di schiaffi. Io ero piccola e ricordo con terrore quei tre uomini che lottavano selvaggiamente. Anche i motivi per cui si picchiavano tanto Alberto e Mario erano futili, come futili erano i motivi per cui esplodevano le collere di mio padre. Un libro che non si trovava, una cravatta, la precedenza ad andare a lavarsi. Una volta che Alberto comparve a scuola con la testa fasciata, un professore gli chiese cosa gli era successo. Lui si alzò e disse: «Mio fratello e io volevamo fare il bagno». Mario era dei due il più grande ed era il più forte. Aveva mani dure come il ferro e aveva nella collera una frenesia nervosa che gli irrigidiva i muscoli, i tendini e le mascelle. Era stato da bambino un po' gracile e mio padre lo portava a camminare in montagna per irrobustirlo, come faceva del resto con tutti noi. Mario aveva concepito un sordo odio per la montagna e non appena poté sottrarsi alla volontà di mio padre, smise del tutto di andarci. Ma in quegli anni doveva ancora andarci. Le sue collere si scatenavano anche a volte sulle cose. A volte non era Alberto l'oggetto della sua rabbia, ma qualcosa che non ubbidiva al furore delle sue mani. Il pomeriggio del sabato scendeva in cantina a cercare i suoi ischi ed era preso, cercandoli, da una collera silenziosa, o perché non li trovava, o perché gli attacchi non s'aprivano, per quanto lui li strapazzasse con le mani. Nella sua collera, certo, erano presenti e Alberto e mio padre, tuttavia in quel momento lontani. Alberto che adoperava la roba sua e mio padre che si ostinava a portarlo in montagna quando lui la montagna la odiava e che gli faceva portare skii vecchi e attacchi rugginosi. A volte si provava gli scarponi e non riusciva a infilarli. Faceva il diavolo in quella cantina, là, da solo. E noi sentivamo da sopra un gran fracasso. Sbatteva a terra tutti gli skii della casa. Sbatteva tacchi, scarponi, pelli di fuoco, strappava corde e sfondava cassetti. Prendeva a calci le sedie, i muri, le gambe dei tavoli. Ricordo d'averlo visto un giorno nel salotto, seduto in pace a leggere il giornale. D'un tratto fu colto da una di quelle sue rabbie silenziose e si mise a lacerare il giornale furiosamente. Digrignava i denti, batteva i piedi in terra e lacerava il giornale. Quella volta né Alberto né mio padre avevano colpa alcuna. Semplicemente in una chiesa vicina suonavano le campane e quel suono insistente l'aveva esasperato. Una volta a tavola, per una sfuriata che gli aveva fatto mio padre, nemmeno fra le più terribili, prese il coltello del pane e si diede a raschiarsi il dorso della mano. Ne sgorgarono catini di sangue. Ricordo lo spavento, le grida, le lacrime di mia madre e mio padre spaventato anche lui e urlante con garze sterili e tintura di iodio. Dopo che avevano litigato con Alberto e s'erano picchiati, Mario restava per qualche giorno col muso o con la luna, come si diceva in casa nostra. Veniva a tavola pallido, con le palpebre gonfie, gli occhi piccoli piccoli. Mario aveva sempre gli occhi piccoli, stretti e lunghi da cinese, ma in quei giorni di luna gli si riducevano a due fessure invisibili. Non diceva una parola. Aveva in genere il muso perché trovava che in casa nostra davano sempre ragione a Alberto contro di lui. E poi trovava ad essere troppo adulto perché mio padre avesse ancora il diritto di prenderlo a schiaffi. «Hai visto che muso ha quel Mario? Hai visto che luna?» diceva mio padre a mia madre appena lui usciva dalla stanza. «Che cos'è che ha questa luna? Non ha detto neanche una parola? Che asino!» Poi, una mattina, a Mario la luna gli era passata. Entrava in salotto, si sedeva in poltrona e si accarezzava le guance con un sorriso assorto, con gli occhi socchiusi. Cominciava a dire «il baco del calo del malo». Era un suo scherzettino e gli piaceva molto, lo ripeteva insaziabilmente. «Il baco del calo del malo, il beco del chelo del melo, il bico del chilo del milo». «Mario!» urlava mio padre, «non dir parolacce!» «Il baco del calo del malo», riprendeva Mario appena mio padre era uscito. Se ne stava a chiacchierare in salotto con mia madre e con Terni, il quale era un suo grande amico. «Com'è carino Mario quando è buono», diceva mia madre. «Com'è simpatico, assomiglia al Silvio». Il Silvio era quel fratello di mia madre che si era ucciso. La sua morte era circondata in casa nostra di mistero. E io ora so che si è ucciso, ma non so bene il perché. Credo che quell'aria di mistero intorno alla figura del Silvio la diffondesse soprattutto mio padre, perché non voleva che noi sapessimo che c'era nella nostra famiglia un suicidio. E forse anche per altre ragioni che ignoro. Quanto a mia madre, lei del Silvio parlava sempre con allegria, avendo mia madre quella sua natura così lieta che investiva ed accoglieva ogni cosa e che di ogni cosa e di ogni persona rievocava il bene e la letizia e lasciava il dolore e il male nell'ombra, dedicandovi appena, di quando in quando, un breve sospiro. Thank you.